Il signor di Guermantes sapeva che per stimolare la verve di sua moglie bisognava contraddirla. Contraddirla in nome del buon senso, in base al quale, ad esempio, non si può scambiare una donna per una mucca. Era così che Madame de Guermantes, rincarando l'immagine iniziale, era arrivata spesso a forgiare le sue battute più brillanti. E il duca si faceva candidamente avanti per aiutarla, senza averne l'aria, a perfezionare i suoi numeri, come nello scompartimento di un treno il compare segreto di un baro. «D'accordo, non assomiglia a una mucca, assomiglia a un'intera mandria!» esclamò Madame de Guermantes. «Vi assicuro che ero parecchio imbarazzata vedendo tutte quelle mucche entrare col cappellino in testa nel mio salotto e informarsi sulla mia salute. Da un lato avrei voluto risponderle: ma, cara mandria di mucche, ti stai sbagliando. Non puoi metterti a conversare con me, visto che sei una mandria di mucche. D'altro canto, a furia di interrogare la mia memoria, avevo finito col persuadermi che la vostra cambre me fosse l'infranta Dorotea, che m'aveva preannunciato una visita ed è anche lei abbastanza bovina, col risultato che, a momenti, dicevo «Vostra Altezza Reale» e mi mettevo a dare del lei a una mandria di mucche. Ha anche lo stesso tipo di prominenza ventrale della regina di Svezia. Del resto, quell'attacco frontale era stato preparato da un intenso fuoco d'artiglieria, secondo tutte le regole dell'arte militare. Non so da quanto tempo ero sotto il tiro dei suoi biglietti da visita. Ne trovavo dappertutto, su tutti i mobili, come opuscoli pubblicitari. Le sue intenzioni mi sfuggivano. Non si vedeva altro in casa mia che il marchese e la marchesa di Cambremé, con un indirizzo che non ricordo e del quale, d'altronde, sono risoluta a non fare mai il minimo uso. «Ma è molto lusinghiero assomigliare a una regina», osservò lo storico della fronda. «Oh Dio, signore, re e regina ai nostri tempi non sono poi gran cosa», intervenne il signor di Guermantes, un po' perché pretendeva ad avere una mentalità spregiudicata e moderna, un po' per non denunciare soverchio interesse verso le relazioni regali cui teneva moltissimo. Bloch e Norpois, che intanto si erano alzati, si avvicinarono al nostro gruppo. «E avete parlato, signore, dell'affare Dreyfus?» si informò Madame de Villeparisis. Il signor di Norpois levò gli occhi al cielo, ma sorridendo, come per attestare l'enormità dei capricci cui la sua Dulcinea gli imponeva obbedienza. Non di meno, con grande affabilità, parlò a Bloch degli anni terribili, forse mortali, che la Francia stava attraversando. Poiché questo, probabilmente, significava che Norpois, al quale Bloch aveva peraltro dichiarato di credere all'innocenza di Dreyfus, era un acceso anti-Dreyfusista, la cortesia dell'ambasciatore, il suo far credere all'interlocutore che gli dava ragione, che non dubitava dell'identità delle loro vedute, che cercava la sua complicità contro il governo, lusingavano la vanità di Bloch, stuzzicandone al tempo stesso la curiosità. Quali erano dunque i punti importanti che Norpois non specificava, ma sui quali sembrava dare implicitamente per scontato che lui e Bloch fossero d'accordo? Quale opinione pensava che potesse accumularli? Bloch era tanto più stupito del misterioso consenso che sembrava regnare fra loro, in quanto esso non si limitava certo alla politica. A lungo, infatti, Madame de Villeparisis aveva parlato a Norpois dei lavori letterari di Bloch. «Non appartenete al vostro tempo», gli disse l'ex ambasciatore. «E me ne rallegro. Non appartenete a questo tempo in cui gli studi disinteressati non esistono più, in cui non si vende al pubblico altro che oscenità e insulsaggini. Fatiche come le vostre dovrebbero essere incoraggiate se avessimo un governo». Essere l'unico scampato a quel naufragio universale lusingava l'amor proprio di Bloch, ma anche su questo punto avrebbe gradito qualche precisazione, sapere a quale insulsaggine intendesse riferirsi Norpois. Era convinto di lavorare nella stessa direzione di molti altri, non aveva mai pensato di essere così eccezionale. riportò il discorso sull'affare Dreyfus, ma non riuscì ad inquadrare l'orientamento di Norpois. Cercò di farlo parlare degli ufficiali il cui nome ricorreva spesso in quel momento sui giornali. Lo incuriosivano più degli uomini politici coinvolti nello stesso affare, perché, a differenza di costoro, non erano già noti, ma erano spuntati e si erano messi a parlare, vestiti in quel loro modo tutto speciale, dal fondo di una vita diversa e di un silenzio osservato con religioso rigore, come Lohengrin che scende dalla sua barchetta trainata da un cigno. Grazie a un suo conoscente, un avvocato nazionalista, Bloch era riuscito ad assistere a varie udienze del processo Zola. Ci arrivava al mattino per uscirne solo alla sera, con una provvista di sandwich e una bottiglia di caffè, come al concorso di Stato o all'esame scritto di maturità. E poiché quel cambiamento di abitudini risvegliava in lui l'eretismo nervoso che il caffè e le emozioni del processo portavano poi al culmine, quando tornava a casa era talmente infatuato di tutto quanto era successo in aula che sentiva la voglia di rituffarsi in quel bel sogno e correva in un ristorante frequentato da entrambe le fazioni per incontrare alcuni compagni con i quali riparlava all'infinito degli avvenimenti del giorno e rimediava, con una cena ordinata in un tono imperioso che gli dava l'illusione del potere, al digiuno e alle fatiche di una giornata iniziata prestissimo e trascorsa senza colazione. Destreggiandoci incessantemente fra il piano dell'esperienza e quello dell'immaginazione, vorremmo approfondire la vita ideale delle persone che conosciamo e conoscere le persone di cui abbiamo immaginato la vita. Alle domande di Bloch, il signor di Norpois rispose: «Ci sono due ufficiali coinvolti nell'affare in questione. Me ne ha parlato tempo fa un uomo, il signor di Miribel, del cui giudizio mi fido ciecamente e che aveva di loro un'eccellente opinione. Si tratta del tenente colonnello Henri e del tenente colonnello Picard». «Ma!» esclamò Bloch. «La divina Atena, figlia di Zeus, ha messo nella testa dell'uno il contrario di ciò che ha messo nella testa dell'altro, e lottano l'un contro l'altro, pari a due leoni. Il colonnello Picard aveva una posizione eminente nell'esercito, ma la sua Moira l'ha spinto dalla parte che non gli conveniva. La spada dei nazionalisti farà pezzi la sua delicata figura e il suo corpo finirà in pasto agli animali carnivori e agli uccelli che si cibano del grasso dei morti». Il signor di Norpois non rispose. «Di che mai stanno cianciando in quell'angolo?» chiese il signor di Guermantes a Madame de Villeparisis, indicando Norpois e Bloch. «Dell'affare Dreyfus». «Ah, diamine, a proposito, sapete chi è fervente partigiano di Dreyfus? Ve lo do a mille. Mio nipote Robert. Vi dirò, anzi, che al giochi, quando si son sapute le sue prodezze, c'è stata un'alzata di scudi, una vera sollevazione. E siccome si presenta fra una settimana...» «Certo», lo interruppe la duchessa, «se sono tutti come Gilbert, che ha sempre sostenuto che bisogna rimandare tutti gli ebrei a Gerusalemme. Ah, il principe di Guermantes, dunque, è della mia stessa idea», intervenne il signor d'Argencourt. Il duca si faceva bello di sua moglie, ma non l'amava. Borioso com'era, non sopportava di essere interrotto. Inoltre era abituato in casa a trattarla brutalmente. Fremendo d'una doppia collera, da cattivo marito cui si osa parlare e da buon conversatore cui non si presta ascolto, si fermò di botto e fulminò la duchessa con un'occhiata che mise tutti a disagio. «Come vi è venuto in mente di tirare in ballo Gilbert e Gerusalemme?» sbottò alla fine. «Non è questo il punto, ma», aggiunse temperando leggermente il tono, «ammetterete che se uno dei nostri venisse rifiutato al giochi, e soprattutto Robert, il cui padre lo ha presieduto per 10 anni, sarebbe il colmo. La cosa che volete ha fatto storcere il naso a quella gente, li ha fatti restare a bocca aperta. Non me la sento di biasimarli personalmente, come sapete, non ho nessun pregiudizio razziale. Trovo che non s'accordi con lo spirito del tempo e io ho la pretesa di stare al passo con la mia epoca. Ma in fin dei conti, che diamine! Quando ci si chiama marchese di Saint-Lieu, cosa volete che vi dica? Non si può essere dreyfusista! Le parole «quando ci si chiama marchese di Saint-Lieu» il signor di Guermantes le pronunciò con enfasi. Certo, sapeva benissimo che chiamarsi duca di Guermantes era ancora di più. Ma se il suo amor proprio tendeva piuttosto a esagerare la superiorità del suo titolo, lo spingevano ad attenuarla non tanto le regole del buon gusto, quanto le leggi dell'immaginazione. Ciascuno di noi vede in una luce migliore ciò che vede a distanza, ciò che vede negli altri. Così le leggi generali che governano la prospettiva nell'immaginazione valgono per i duchi esattamente come per tutti i mortali. E non soltanto le leggi dell'immaginazione, ma anche quelle del linguaggio. Ora, in questo caso si poteva applicare l'una o l'altra delle due leggi del linguaggio. Secondo la prima, ci si esprime come componenti della propria categoria intellettuale e non come quelli della propria casta sociale. Il duca di Guermantes poteva dunque essere, nell'eloquio e persino quando voleva parlare di nobiltà, tributario dei piccolissimi borghesi che avrebbero detto «quando ci si chiama duca di Guermantes», mentre una persona colta, uno Swann, un Le Grandin, non l'avrebbero mai detto. Un duca può scrivere un romanzo da droghiere, magari proprio sui costumi mondani, i suoi titoli nobiliari non essendogli in questo di nessun aiuto, e un plebeo meritare con i suoi scritti di essere definito un aristocratico. Chi fosse, nella fattispecie, il borghese dal quale il signor di Guermantes aveva sentito dire «quando ci si chiama», probabilmente lo ignorava lui stesso. Ma un'altra legge del linguaggio vuole che, di tanto in tanto, così come si manifestano e poi scompaiono certe malattie in cui, in seguito, non si sente più parlare, nascano in modi per lo più imprecisabili, o spontaneamente, o per un caso paragonabile a quello che fece attecchire in Francia un'erba grama americana perché un suo seme, rimasto impigliato nei fili di una coperta da viaggio, era caduto su una scarpata della ferrovia, delle espressioni che, nello stesso decennio, sentiamo usare da persone le quali, in proposito, non hanno preso nessun accordo fra loro. Ora, come un certo anno sentì Bloch dire, riferendosi a se stesso, quando le persone più affascinanti, più brillanti, meglio introdotte, più esigenti, si resero conto che c'era uno solo che trovavano intelligente, simpatico, di cui non potevano fare a meno, ebbene quest'uno era Bloch. E colsi la stessa frase sulla bocca di diversi altri giovanotti che non lo conoscevano e che si limitavano a mettere il loro nome al posto del suo, così mi sarebbe capitato spesso di risentire quel «quando ci si chiama». «Che volete?» continuò il duca. «Con l'aria che tira laggiù è abbastanza comprensibile. La cosa più comica», replicò la duchessa, «è pensare alle idee di sua madre, che ci secca da mattina a sera con la patrie française». «Sì, ma non c'è soltanto sua madre. Bisogna dire le cose come stanno. C'è una certa signorina, una fraschetta della peggior specie, che ha più influenza su Robert, ed è, guarda caso, compatriota di Messer Dreyfus. È lei che gli ha attaccato il suo modo di pensare. Forse non sapete, signor duca, che c'è una nuova parola per esprimere ciò che avete appena detto», intervenne l'archivista, che era segretario dei comitati antirevisionisti. «È la parola mentalità. Significa esattamente la stessa cosa, ma col vantaggio che nessuno lo sa. È il non plus ultra, ovvero, come si suol dire, l'ultimo grido».